del canale 10 Gambio. Chi è questo cardellino? Hola. Morbidissimo. È meglio di quello che c'ho io. Il mio è ancora leggermente duro da incassare, quello proprio lo sfiori col dito è favoloso. Sto riuscendo veramente bene, eh? Ma io vorrei fare un paragone per vedere che microfono devo lasciare, se questo o l'altro da palmo. Questa è bella, amplificata, bella, forte, chiara. Cavagava, e va bene, per il momento lasciamo questo qua, dai. Perché l'altro mi disimpegna di più, la verità è questa, mi disimpegna l'altro. Adesso provo una cosa, provo questo qua, no vabbè, dai. Lascio stare, non aggiunga. Devo provare un altro microfono sul coso. Ma vabbè, lo dettaggi, ma l'abbiamo già provato, mi sa. Ma no, lascialo lì già, se gli abbinamenti sono quelli, lascia stare così. Se lo lascia al Galaxy, quello lo lascia al 3009, poi se vuoi cambiare, mettere il microfono normale perché ti disimpegna, va bene, lo metti da una parte, però almeno sai che va bene, che funziona, quando lo vuoi usare lo usi. No, non è normale, il Cialetta non è normale, il Cialetta è amplificato, capito? Non è normale, non è dinamico. Oh, yeah. Ah, quindi la macchina ce l'hai tu stasera? Sì, si è andata a piedi, ma ti viene a prendere il recito, quindi mi faccio passeggiare. Adesso mi preparo, vado a prenderla. No, no, ho capito, il Cialetta non è amplificato, ho capito che usavi l'altro microfono, ho capito. Quindi puoi mettere l'attacco che per dire nel 3009, se ti disimpegna meglio di quello lì, però almeno sai che quello lì adesso funziona, è a posto, quindi lo puoi mettere a qualsiasi parte. Sì, ma infatti, adesso è vero, dai, per un po' uso questo qua, poi uso l'altro. E farlo andare quello già, farlo andare, non lo tenere fermo, farlo andare. Vai benissimo la grande, bel abbinamento, te l'avevo già detto che andava bene, quindi non ci sono problemi. E poi con questo filo è un lusso, cazzo, puoi tirare, fare. Io lo metto sul cassettino dove c'è il computer, lo tiro fuori il cassettino e appoggio il microfono, capito? Va bene, l'ho visto, morbidissimo, ottimo lavoro quello. Tutto il resto è noia, ma quello lì è un ottimo lavoro. Ehi, ehi, andava, grazie a te, dai, che sta andando questo microfono. Ora, ora, cazzo, a bomba. E a te ieri ho notato che tu come abbassavi il tono, uscivi più forte. Sì, anche tu se lo metti a zero usci più amplificato. Cioè più tonalità acuta, capito? Perché col tono smorzi, dai più tonalità medio-bassa. Guarda a vedere se così va meglio. Perfetto, molto molto più, hai molto più acuti. Se non ti dicono che è barattolosa, per me non è barattolosa, è chiara e forte. Cavagava, sì, fa fondoscala la lancetta come parlo, boom. Certo, la fondoscala adesso già, se non faceva tutta la corsa. E poi chiaramente il circuito di preamplificazione era talmente sporco che non stava amplificando bene, capito? Adesso va bene. E grazie a me già. Io da gente seguro pure che qui a terra, dammi a me che già te lo sistemo io. E abbiamo dato una pulitina, una sistematina, ma il microfono è... non c'è niente, è nuovo, già, non ti preoccupare. andare, tutto bene ciò che finisce bene. Cazzo, un'altra sudata me la sono fatta, dai. Quando sono andato a provare il microfono che non funzionava, l'alimentatore. Ma io già ti ho detto, guarda che deve essere il cavo, stai attento, cioè noi con l'alimentatore lo sposti, era acceso e non attendi più, ma te scherzato. E lì si tratta di casi di alimentazione, cioè, in questo deve essere mia figlia. Ok Gianni, dai, vado a prepararmi, mi sembra che ho sentito anche Marco poco fa, mentre ero distante dalla radio, mi sa che c'è anche lui in ascolto, prova a chiamarlo, dai, io vado a prepararmi, ci sentiamo dopo, ok? Ehi, acqua, dai, vai tranquillo, avanti Marco se ci sei, cambio, Ratta Pignara, ci sei? L'ho sentito poco fa, non ho capito cosa stava dicendo. Va bene, dai, Luca. Ma che buona gana, eh? Appena che pigiamo, se mi devo preparare di nuovo, vabbè, dai. Sono lontano dal microfono, ok, dai, già ci aggiorniamo dopo, lascio tutto acceso qua. Vai tranquillo, ok. Buonasera. Buonasera a lei, con chi ho l'onore di parlare? Mi avrà sentito 10.000 volte, milioni di volte, ancora non riconosce la modulazione. Uranio solo, K, Uranio. Buonasera anche a te, K, buonasera. Con questo microfono ci stai pompando già, eh? Come dici di tu, eh? A pompa questo? È abbastanza pompa. Pompa parecchio pure, pompa, sempre dentro qua, sempre. Ok, ti dà anche l'effetto di tipo una stanza mezzo vuota, capito? Evidentemente lì, e deve essere così. Comunque va benissimo il microfono, complimenti. Che è il microfono Sanzano, ZG. Quello che a te non piace. Infatti a me non piace, no, a me mi piacciono altri tipi di microfono, questo, quello lì proprio non mi piace, io qua ne ho due, cioè le MP4 e le MP5, insomma non mi piace. Non mi piace, quello il P4 io non ho fatto scrittura anche la capsula, infatti quello lì dovrebbe andare meglio, ma adesso non so, lì stacca e riattacca. Come sapete sto usando il turner, non so come mi senti, tu ma te il cambio, dai. Cioè, la modulazione è buona, ma non spinge come dovrebbe. Non lo stai usando a volume alto, perché il turner dà un'altra modulazione, ma non è che la rigiamba della capsula. Sai cosa che ti dica? No, non penso la capsula, questo però ho fatto tutto di fatto, perché avevo lasciato, mi ero dimenticato la batteria dentro e la batteria si è scogliata e il liquido della batteria mi ha tutto incasinato il circuito elettrico del microfono, infatti qua è stato tutto il cavo, anche tutto la connessione, lo spinotto, tutto il cavo e non so cosa quello lì abbia fatto il circuito del cavo, non lo so io, non lo so tu. Cosa lui ti dica, e infatti appunto per quello il microfono qua deve spingere sì, però cosa lui ti dica, non lo so, a meno che non abbia regolato qualcosa dentro, questo qua, non so cosa abbia fatto, non te lo so dire, non me ne sento io, quindi non posso diciamo esprimermi diciamo il più del tanto, capito? Anche il cambio, sì. Il volume a quanto ce l'hai? A tavoletta. A tavoletta? Vabbè, comunque non stai uscendo male, magari anche la tua modulazione, non lo so, io sono un braccio di distanza, non so come mi stai ascoltando. Bene, te l'ho detto, benissimo, bene, perfetto, chiarissimo, perfetto, amplificata la modulazione, tutto, ma benissimo, bene, bene, bene, bene. E a Francia, poi Io preferisco di più quelli da palmo, perché li posso sdraiare, allungare il filo e cose, e preferisco di più quelli da palmo. Comunque anche ne ho due da base qua in stazione, c'ho il Saverta, Master Fuse e questo qua. Il Saverta è un bel microfono, quello mi piace parecchio, il Saverta mi piace, un bel microfono, bellissimo. Ha un'amplificazione con il microfono micidiale lo stesso, bel microfono da tavolo. Lo conosco abbastanza bene quel microfono, bellissimo, bello, bello. Molto, sempre molto, molto bene di vedere questo cavolo di ZG, con lui anche il collo di braccio regolabile, il collo del microfono regolabile, capito? È bello anche per quello, per regolare come ti pare, alto, basso, insomma, un bel microfono là. E io allora l'avevo scambiato proprio con un MB più 5, avevo dato un MB più 5 e me l'ho fatto dare Saverta. E va molto bene, molto più bene dell'MB più 5 sul gas. Ma stai scherzando, allora tutto bene che va, capita, non c'è manco paragone, ma scherzando sta. Non c'è paragone, quel microfono tra l'altro lo conosco benissimo e poi ha una spinta terribile quel microfono, è veramente bello, bellissimo, bello, bello, bello. Non c'è niente, solo che non è trovi più, dove cavolo lo trovi. Passa l'FM su 20 FM. sentire. A seccare con. Francesco. Ehi, dimmi, sono qua. Speriamo che l'abbia finita di rompere. Speriamo bene. Speriamo bene, cazzo. Ok, va bene. Comunque. Va benissimo il microfono. Cosa fa la saletta? Ognuno. Mangia. Anche qua. Vedare. Non è che lo vedo. Non so. Aspetta qualche. Vabbè, come ti dico. Devo andare su. Ecco. Avanti, vabbè. Chi era che stava parlando con il metro alla portante? Ciao, buonasera a tutti. Ciao Gianni, chi c'è? Era Francesco da oggi, non lo fanno parlare. Lo disturbavano parecchio. Ciao Francesco, ce ne ascolti? Sarà il video della portante, non lo so. Ok, l'altro giorno c'era Giulio, adesso ci sei. Ah, tu Francesco sei Urano, se non sbaglio, così è. Non lo so chi sia. Comunque qua il segnale tuo è quasi 9:20, la portante è 9:20 spaccata, ti manda un fischio e ti supera. Non so se tu mi ascolti, penso di sì, che siamo abbastanza vicini, confermi? Purtroppo ti schiaccia questo segnale, cosa possiamo dire? Speriamo che smetta, non c'è problema. C'è qualche altro Gianni, se tu probabilmente riesci a copiarmi bene lo stesso. Sì, io ti copio, ma te non te ne mette porno, te la mette solo ora. Non so cosa dire, dai. Ok, pensavo fossero finiti i discorsi, va bene. Stavo dicendo, c'è qualche altro Gianni? No, ci sono solo io, Uranio, che stavo parlando, poi entra a fare la portante. Vai, io vedo se ti risponde che sta la portante, ma non penso. Ma questa portante dalle parti tue, quando ti arriva già? 9:30. E quindi verso giù, qua è un po' di meno, la portante è 9:20. Cosa volevo dire? Mi sono dimenticato. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Scusa un attimino. Break? Sì, avanti il break. Scusate, ma sto rispondendo giù, ti rilancio a Gianni. Ciao Gianni, mi senti? Gianfranco, facciamo forse Giulio, scusate. Gianni, ci sei? Sì, ci sono Gianfranco. C'è anche Uranio, prova a chiamarlo per vedere. Uranio o Urano? Urano o Uranio, ci sei? Abbiamo giocatori oggi. A quanto pare. Io fai da bravo, su, che adesso non siamo a quell'epoca. C'è l'arco Urano, deve essere già fatto qualcosa. Da me riesce quasi a passare Urano, ma il fischio dà fastidio, diciamocela tutta. Urano, io la passo la portante. No, quando... E quando... Però... Adesso cazzo. Questo fischio è fastidiosissimo. Ho provato a eliminarlo. Quasi ti capisco. Ho capito che non va passo, ma sto scendendo basso. Però a quello già c'è rimedio. Riprendi Gianni. Aspetta, scriverò un messaggio. Aspetta che c'è quello filtro. Hai detto Gianni? Sta scrivendo un messaggio. Sta scrivendo un messaggio. Ok, riprendi. Mi sono già dimenticato. Roberto? Ehi batteria. Ho fatto confuso per Giulio all'inizio perché ero concentrato sul cellulare, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp e mi sembrava Giulio, per un attimino ti ho salutato come Giulio. No, qua la portante arriva abbastanza forte, arriva a 9,20 abbondante, mentre Urano o Uranio, ancora non ho capito se si chiama Francesco Urano o Francesco Uranio, puoi chiedermelo, puoi dirmelo con sicurezza, dai, avanti Uranio. Riesco a prenderti, ti schiaccia questo rumore, a me non mi passa, il segnale mio mi passa, Gianfra. No, non ti passa, non ti passa, Robè, aspetta che accendo anche un altro apparecchio che mi dà la posizione di questo signore. Non sa con che ha a che fare, un attimino. Sono di giù comunque, perché a Gianni gli arrivano per più 30. Gianni, a me mi passa. Robè, dipende, non lo so, non ci ho fatto caso, va. Volevo vedere dopo se ti passa, non lo so, io non passo. Sì, tu abbondantemente, tu sei quasi 9 più 30, la portante è 9,20, mentre Urano, dimmi tu Gianni, come si chiama? Urano con la O o Uranio con la Io? No, io lo chiamavo Uranio, però forse Urano, non lo so, chiedi alla luce. E Urano, tu sei Urano o Uranio? Ah, non riusciamo a capire purtroppo, mi dispiace dirlo, ma appena parli tu Urano o Uranio, non so come si, chiamiamoti Francesco che è più facile, e ti mette su questo fischio che è molto fastidioso perché è molto acuto. Non so cosa dire, io pensavo che i periodi delle portanti fossero finite, l'altro giorno ce n'era una per Giulio, adesso la mettono a te, mettetevi d'accordo, dai. Io rimango ancora un pochettino, se si sporca la situazione spengo tutto e me ne vado. Vediamo se adesso mi senti Urano. Urano, mi stai ricevendo ora? Sì. Gianfra, localizzalo qua. Sì, adesso ho eliminato la zona da cui arriva il segnale e t'ho ricevuto, quindi comunque lo passo. Vabbè, io uso il cavo di fronte, c'ho tutta Sassari, c'è un'antenna che sta girando, la localizzatore, tra poco mi dà la posizione di dove si trova, vediamo un po' quanto si diverte ancora. Ma lo sapete che c'ha Gianni, c'ha il Bipi che si riconosce, mi. Cosa c'ha? Il Bipi, ha messo il Bipi, ha messo. Caspita, si riconosce subito quando entra, manco furbo, Non è un Bipi, è un fischio quello. No, c'è anche il Bipi, ha ragione. Era un bip, non un fischio, un bip. È un fischio, lo senti? È un fischio a cose di bip. Lui si crede che così non lo conoscono. C'è un po' gu. Comunque io riesco a tirarlo fuori, Urano, anche col fischio. Avanti, Urano. Urano, Uranio, me lo dimentico sempre. Vedi, è Uranio, non Urano, c'avevo ragione io. E comunque Vito lo passa. Ne ha da fischiare, da mettere trombette. Pagato. E vabbè, basta per l'attrezzatura, non farò nulla molto importante. Le rimi, le cancelli più. Comunque che zona è per la cronaca? Non te lo posso dire adesso, però è il segnale da Sassari comunque. Beh, però l'avevo capito anche lei, arriva a 9.30 a casa. Vabbè, non dico oltre, capiscimi al volo. Vabbè, dai. Ma fate rubis. È rimasto un po' indietro con le portanti, prima era un po' difficoltoso, ma con questi apparati moderni oramai ti danno analisi, capito, del segnale, nord, nord-ovest, sud, quindi se sei in buona posizione lo trovi. scusa, mi sono notato un attimino, che zona è? Zona di giù verso Porto Torres o verso Santa Maria di Pisa? Ti ho detto già, lasciamo perdere. A Sassari, diciamo in una certa zona. Va bene, dai, lasciamo perdere, speriamo che si smetta con questi divertimenti. Va bene, ok, è entrato chi era? Macchisio, l'altro, chi è che è entrato? Macchisio, era Tore questo. Tore Squaro. Ah, scusa, vabbè, dai, non è che li abbia sentiti spesso, io li confondo tutti e due, perché veramente li ho sentiti. Comunque, Tore, ben sentito anche a te. Se epiloghiamo, c'è io da questa parte, Roberto Quadrato, Gianni Doppio Rum, Gianfranco, Tore, e poi chi c'è? È su Osilo, Francesco Uranio, così si chiama. Scappa, Uranio, riprendi. Che scatto importante che c'ha io. Facciamo uno scatto proprio potentissimo, come aggancio la portante, ok, tu stai usando qualche po' di potenzina, di potenza, e anche qua non sono liscio, sto usando un po' di potenza, almeno 200 watt sto usando, ok, non sono liscio, ripeto, non sono liscio, quindi non ho capito, va bene, va bene, lasci stufare il signore, chi ci sia, non fa niente, non fa niente, lasciamo perdere, ok, va bene. Riprendi Gianni, avanti. Uranio, quale ti piace più la modulazione? Quella delle BMW più ciclo o questa? Non è possibile di tutti e due, comunque sono tutte e due, diciamo, bellissime, ok, tutte e due potenti sono. Questa è più acuta la modulazione, mi pare. Questa è più acuta, più amplificata, diciamo, più lanciata la modulazione, capito? Più potente, più acuta, l'altra è più tonale, capito? Comunque sono tutte e due, diciamo, ottime modulazioni, ottime radio, dai, ok, perfetto. Vabbè, meglio così. Adesso faccio girare l'altra che è un po' ferma da tanto tempo. È la stazione Inter, che è quella che uso un po' meno, dai. C'è un po' il rumore di ventilatore, è possibile? Roberto? Urano, avanti. Ok, yes. Perfetto, scappa. Comunque, come sto arrivando io lì da te, Gianfranco, dammi un segnale. Questo segnali non ne dà, capito? A LED particolari, ti dà solo... vediamo un po', ti dà altri tipi di segnale, tipo DP, ma non in termini di Santiago, quindi non sono molto comprensibili, detto così, è inutile che ti dia i DP con cui arrivi. Va bene, fa niente, va benissimo lo stesso, l'importante è che stia arrivando, ecco, se non è il segnale esatto, non fa niente, ok. E tanto era tanto per sapere come si arrivava un segnale, dai. Ok, non fa niente. Benissimo, riprendi e fai girare. Vediamo se Gianni ha cambiato tutto. Gianni? Eccomi qua! Adesso ci sono. Poco fa ti ho detto che c'è un rumore di ventola, si sentiva, è possibile? Cosa? L'alimentatore che gliel'ho anche pulito nel vento, l'ho smontato, pulito tutto, ma un pochino lo fa sempre il rumore. È un alimentatore da 50 A, di quelli grossi, quindi un po' la ventola gira forte, probabilmente è quello. No, come tutti i PC tende a sbiellarsi dopo un bel po' di usi, capito? Quando si sbiellano fanno rumore, bisogna cambiarle, perché girano, stanno sempre a girare, e ovviamente se non sono di alta qualità si consumano e di lì iniziano a non essere più in asse. Ok, vediamo Roberto com'è. Roberto? Sì, no, ma tu stai arrivando a bomboletta qua, Gianfra. Io di norma esco sempre con un watt, adesso ne sto usando 5 e mezzo dovrebbero essere, quindi figurati, non sono necessari tutti i watt in città, capito? E io, Robe, come ti arrivo con l'Intec, stazione base? A me stai dicendo già? Che Sì, a come ti arrivo di segnale con l'indice stazione base? 9.25, mentre Gianfranco è 9.35, non so io quanto ti arrivo, Gianfranco quanto ti arrivo? Con 5 watt. Stesso discorso l'ho fatto prima, è difficile dare segnali con questo apparecchio, ti dà solo i dB di entrata. Quanti dB sono? Aspetta che sto montando questo affare, che è disgraziato perché ha touch screen, solo che vicino c'è anche la M e col dito grande, vediamo un po', è micidiale. Un attimino, che devo passare con il tasti a commutare. Più di 46 dB. I dB sono debiti, mi vuol dire debiti, Robè. Figa. Ma possono essere anche crediti, vari debiti ce l'ha l'altro. No, dB, debiti, pappagappa. Ho urani. dB sono qua già. Già sono qua già, comunque prima sta dicendo molto meglio. Su questo esci bene lo stesso, però la radio è molto... ha cambiato molto, evidentemente sta usando il microfono normale qui adesso, senza ombra di dubbio. Comunque la radio è buona lo stesso, la radio è 4, posso dare adesso, prima era 5, tutti abbondanti. Comunque va bene lo stesso anche con questo Intex che stai usando, va benissimo lo stesso, ok, a te il cambio. No, non è normale, è amplificato il microfono, è il Proxel questo qua. Aspetta che provo a fare il blocchetto, il blocchetto. Bell'eco, bellissimo, quello è la mia passione, ecco, bello, bello veramente, bello, bello, bellissimo, ok, va bene, va bene. Amico tu è Gianfra. Sì. Lavora su via, dopo mi sono sentito pure. Bellissimo, bello, bell'eco, bell'eco. Io l'ho abbassato perché Gianfranco non le piace, quindi l'ho abbassato, sennò lo tengo sempre un po' più alto. L'ho fatto basso basso, però perché so che a Gianfranco dà fastidio, e anche a Roberto non penso che piace. E va rimasta, Orlando, quando c'è il nuovo giro, nuova corsa, i signori sono pregati di inserire il gettone. No, piuttosto dimmi una cosa già, hai detto Proxel. Esatto. Ma qual è quello nero con tanti pulsanti, up, down, power, quello lì? No, è quello che c'ha le rotelline dietro, una dell'amplificazione e l'altra dell'eco. È semplice, poi c'ha un trimmer esterno e tu entri il cacciavite e ti puoi fare anche il parlascolta nell'apparato che non ce l'ha, e ti puoi ascoltare, capito? Se c'ha l'eco, io pensavo fosse una cosa seria, invece se c'ha l'eco incorporato, no, come direbbe qualcuno, ma ce ne sa. Capra, hai dato i segnali in dB, se lo puoi dare o c'è problema? No, aspetta, che adesso si è impostato in S, prova? Prova radio, 1, 2, 3, prova canale 10. Abbastanza forte, oltre il 9, linea rossa, dovrebbe essere un 9.20. Col beneficio del dubbio, perché in questa modalità non è molto preciso, solo che se l'avevo dire tutta mi sono anche dimenticato, siccome ne ha 1, 2, 3, 4, 5, un pochettino in difficoltà, perché aggiungi che ti dà temperatura e poi... Mi devo pure mettere gli occhiali, insomma siamo sistemati, dai. No, non intendevo in punti S, parlavo proprio in decibel, volevo fare un confronto. Gianni Cagarella. Ciao. Mi sentite, sì? C'è stata una risposta a tu, forse che ti sentiamo, sì. Cosa adesso? Aspetta a vedere che accordo qua. Ok, è a posto. Ciao Robert. Stesso rumore, c'è un rumore, rumore? L'avvento, guarda adesso, BBU, adesso, prova, no adesso, ma deve essere il microfono, il microfono, mi guarda, aspetta, guarda, sì, no, aspetta, aspetta, il microfono, come sta spezzando? vabbè, la riprendete. No, no, vicino alla colonnina, magari ti fa rientro. No, non c'entra niente, mica c'è e parla ascolta questo qua. È il microfono già. È il microfono. Vabbè, dai, si sente adesso? Sì, ma dove si è accaduto? Ma si sente il rumore? No, a casa la 25. No, non si sente bene la radio. Che è il microfono mezzo andato, un microfono normale già, ma devo comprare uno. Ma esce bene, esce, sembra amplificato. L'ho modificato io, mi sono a capo, se l'avevo adattato. Sicuramente ci sta aspettando il cavo, basta, me lo porto a casa, me lo rifaccio nuovo, ora sono in cambio tutto il cavo, mi sembra l'avevi dato tu uno, se non mi ricordo, devo controllare, anzi l'avevi dato tu, era tutto ossidato, ecco, adesso che mi ricordo, era bello lungo, già, di quelli, non era di quello morbido, però era tutto ossidato. Quello come ce l'ho fatto un tempo, magari anche se sono nella scatola si uscita, vabbè facciamo girare, Robert riprende. Ok, ok, no, volevo chiedere a Gianfranco, non mi ha risposto, i valori in dB, non nei punti Hertz. Sì, fatto, 50 dB. Cazzo, 50 sono tanti, io pensavo sui 45-46, quindi il segnale è abbastanza forte, dai, sono contento. Tu vabbè, siamo in linea aria, ci vediamo le antenne probabilmente. Guarda a me, questo qui sta facendo contro il vatto e mezzo però, Non lo posso usare mentre parlo già, perché è un altro apparato. Adesso ho impostato anche questo come segnale, quindi Roberto era sui 9.35 dovrebbe essere, una cosa del genere. Prova tu Gianni. Sì, vediamoci. Ehi, dai, ciao. Che c'ho io 9.20 e già va bene lo stesso. Ciao Claudio, ciao. Avanti. Ciao, buonasera a tutti, solo per un saluto sono entrato adesso, già lo sai davvero. Sì, vediamoci, prendete il binocolo, vedetevi. Ehi, ciao Claudio, hai sentito? Ciao a tutti, ciao, proseguite. Avanti a chi spetta, Luca, avanti. Luca è sparito, che rilanciamo, Uranio, avanti Uranio. Ok, buonasera Claudio, ben sentito, ok, perfetto. Lì non ci voglio io, non capisco una cinese, questa è decibel, rogerissimo, cose complicate, non mi vanno molto a girare a me, io sono per le cose semplici. Va bene, comunque ognuno ha le cose sue, va bene, perfetto, dai. Ok, va bene, comunque io adesso chiudo perché mi devo allontanare dalla stazione, va bene. Comunque saluto a tutti e in generale ci sentiamo magari domani, ok, per me è QRT, ok, riprendi Gianfranco, a te il cambio. Sì, ciao Claudio, buona serata, ciao anche Vulcano, alle prossime. Gianni, adesso mi sono dimenticato, tu eri 20, quanti eri? 30-25 di bino, Claudio. Ok, comunque è un 9.20-9.21, giù di lì. Ok, riprendi Roberto. Saluto anche Uranio, ciao Francesco, ben sentito, radio molto potente, mi è piaciuta oggi la radio. Io devo chiudere adesso, devo far cosa, saluto di nuovo, un saluto generale Gianfranco, Gianni, Claudio, se all'ascolto e poi tutti gli amici qua su Canale 10, correti da parte mia, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao, ci sentiamo, dai, buona serata. Avanti Gianfranco. Quindi siamo rimasti soli? E anche Luca, ma non so dove sia andato. E il tuo fidanzato stasera non c'è. Di chi? Marco. No, questa là starà mangiando. Starà pranzando o facendo colazione. Ma Marco, ci sei, esci fuori, esci da pizzo, aiuto. Sta mangiando, roba buona sta mangiando almeno. Avete parlato in due? Sì, roba normale. Buona serata a tutti. No, io oggi mi sono crepato a forma di salsiccia, stasera a merenda e non c'ero. Se no, cazzo, ti divento la guba. Ciao Marco, comunque, buonasera, dai. Avanti, che c'è anche Gianfranco, avanti. l'ho acceso per conto suo, stavo facendo roba acquisendo documentazione per sempre queste menate che dobbiamo mandare giù a Taranto, e quindi non sono entrato, infatti farò più che altro ascolto. Poi oggi voglio tentare di guardare un programma dall'inizio, dalle 9 in poi. E beh già, per quei microfoni hai poi risolto? Sì, tutti e due, ho risolto tutti e due, uno me l'ha risolto Claudio e uno io. Abbiamo risolto tutti e due, poi per la cronaca sono andato per provare il microfono, sono andato a attaccare l'apparecchio e non accendeva l'alimentatore. E lì di nuovo mi è venuto a sudare, ho detto ma una fragosa. E in effetti sai cos'era? Il cavo elettrico interrotto. Ho messo quello di un monitor di computer per il momento e va benissimo. Sì cacchio, oh già, ma quello è pendacciamento forte, quello è fattura. Qua, non so che dirti Marco, se poi ti racconto il resto, vabbè qua non te lo dico, ma te lo dico, ma è meglio che non è parte, lascia perdere. Questi giorni è andata così e basta, quando uno è dopo, trova sempre la spina. Sì, purtroppo ne arrivi ne una anche qua, per carità. Poi ero un po', c'avevo un po' di mal di testa, non mi sentivo, non dico sintomi influenzali, ma l'impressione. Invece probabilmente è perché io mi scopro troppo in fretta e prendo freddo, capito? Mi tolgo tutto quando arrivo a casa e finché non mi si ghiaccia la pelle non mi ricopro, capito? E mi frega sempre così, sempre lì siamo. Vai Gianfranco. Sì, come in passato si dice, è sempre a culo nudo. A culo no, magari a petto nudo sì, ma insomma roba leggera. Sto ancora usando roba estiva perché esci fuori c'è un caldo, quando esci a piedi che c'è il sole io torno, non dico sudato no, ma faticato sì un po' col fiatone, poi con queste mascherine me, te le raccomando. Quindi Roberto ha chiuso, Uranio ha chiuso, arrivava bene, Santiago è abbondante. E chi altro c'era? Chi altro è entrato oggi? La portante per Uranio c'era, se vuoi sapere. La portante su Uranio, e quant'era la portante, grosso modo? 9,30. Ah, bella, bella tosta pure, minchia. Permette un attimo. Che argomenti della discussione già ne avevate oppure così? Così per passare il tempo. Per passare il tempo, Marco. Lunga le serate, anzi mi sono distratto io acquisendo scannerizzando documentazione, eccetera, tutto da mandare, così dai. Grazie a Dio con lo scanner Epson, scanner stampante sta andando bene, soprattutto la sezione stampante. Perché questa Epson basta che stai un mesetto che non la usi e parte gli ugelli si rovinano e ce la devi buttare. È come quella di mia zia, è tutta righe, tutta strisce, stampa malissimo, brutta, brutta proprio. Inaccettabile. Questa sto riuscendo a tenerla abbastanza attiva, non attivissima perché noi in realtà stampiamo poca roba, poca roba. Va bene. Roba banale, terra a terra, l'avevamo pagata 39 euro da Auchan, una XP235 della Epson, roba base, dai, niente di che. C'è una funzione wifi che ovviamente non usiamo perché devi usare il wifi di casa che fa da tramite e a me così non piace. Riprendi Gianni? Gianni sta trafficando, va Gianfra? Cosa ti stavo dicendo? Ma sì, stavamo parlando del più o meno niente importante comunque. C'era una portante, quindi era un pochettino fastidiosa la cosa, però non riusciva a passare. E ti volevo dire Marco, porca la miseria. Lo stai guardando il trono di spade? No. Non più Gianfra, la serie è finita l'anno scorso, no, fine anno scorso è finita. Dimmi. Ah, l'hai rubata quindi, da Sky? No, rubata no, è una brutta parola, rubata. Dimmi perché, cosa volevi sapere, di quale punto? Sì, ma Troni Spade è poi una serie vecchia, ormai non, cioè, finita già da un po', da un annetto. È finita anche che non mi è piaciuto tanto il finale, comunque. Sì, non me lo dire, però da bravo, non me lo dire. No, perché purtroppo la stanno facendo coincidere con Gomorra e quindi devi fare una scelta un po' difficile. Io ho scelto il Trono di Spade, vediamo un po' se... E Gomorra non si trova da nessuna parte, neanche con i soliti sistemi. Sul serio? Boh. Gomorra, boh. Ah vabbè, quella roba lì. No, preferisco qualcosa che sia meno reale, meno, se no mi accendo il telegiornale, sento la cronaca nera, siamo lì. E poi rilancio Gianni, a che stagione sei arrivato tu di quella serie TDS? Guarda che ti ho mandato un filmato, vai, guarda. Sì, prendo lo smartphone, ce l'ho nell'altra camera. Gianfranco, la risposta? Beh, la stagione 4, quindi l'ultima, ci sono tre puntate, credo ancora, dopodiché finisce, che tra l'altro sono raccontate anche su Wikipedia, che fregatura, ragazzi. Riprendi Gianni. Ehi a Gianni, ecco, sono qua, adesso apro lo smartphone. Dai, ti dico come va a finire tutto, così ti rovino la serie. Non t'azzardare. No, ma infatti anche su internet bisogna stare attenti perché ci sono spoiler. E anche perché è una serie appunto che è finita un annetto fa. E... Aspetta Gianni, qua non è arrivato niente ancora, Vediamo, magari ci mette un po' la notifica, però di solito quasi istantanea. Vabbè, quando arriva. Gianfra, questo bip acuto ti ricorda qualcosa particolarmente acuto? Ma per dire però non ci ho fatto caso, ero distratto. Adesso, come ho detto, l'ho ascoltato. Beh, potrebbe essere un ultimo dei tre, il solito... non mi vengono nomi, dai. Insomma, un bip CB comunque. No, l'ultimo dei tre è molto più basso, più breve. Questi sono 250 millisecondi a 2.500 di frequenza, perché non ho trovato i gradini intermedi come lo volevo fare io. Vediamo un po' se nell'autoascolto, no, nel baracchino. Oddio, non so quanto renda, però non ti ricorda vagamente qualcosa tipo Quindar? No, non me li ricordo più poi con tutte le cose che ho in testa non c'è più spazio, capito? È talmente piena che ormai non ci sta più niente. Riprendi i Gianni. Ehi, ma sempre guardando il film sta? Io? Beh, appena posso sì, appena ci riesco, se non mi addormento. D'altronde devo sfruttare due abbonamenti, uno ce l'ho perché ce l'avrò da tanto che è Netflix, e l'altro perché ce l'ho incorporato nel coso di Amazon, che è Amazon Prime, anche se non è che diano grandi cose, ecco, è molto inferiore a Netflix. Io già fa non ci riesco più a guardare un film, mi addormento. Ah, non ci riesco, manco un programma, vedrò un po' prima. Sì, a che lo dici? Oggi tra l'altro mi sono addormentato anche dopo pranzo, forse ho mangiato troppo e quindi niente, adesso stanotte mi dovrò guardare due film e fare l'una, per carità. Stare in radio a quell'ora non mi piace perché mi prende il freddo. Anche se c'è roba molto interessante, ho visto. Gianni, qua non è arrivato niente. E allora chi l'ho mandato? Scusa. Boh. Ma dico, già l'hai mandato a me, sì. Mi auguro di sì. No, per Gianfranco volevo dire, volevo tentare di imitare il Quindar Ton, no? Quello delle missioni, no, già hai capito, astronauti. Praticamente ce n'era uno a 2520 Hz che era d'inizio trasmissione, mi pare 2525 Hz. Quello di fine trasmissione era 2475 Hz, io ho arrotondato, ne uno solo ho messo 2500, volevo vedere se ti veniva in mente, dai. Ma quella è di coso, di... ho capito, quando dice ciao io sono eccetera, sì, sempre roba di astronauti, di NASA, eccetera. Vabbè, comunque è una cosa inusuale così, una roba vecchia poi. Ma così non so se fosse uno vecchio o nuovo. Ah, ricordati una cosa già, quando tu chiami al 347, quello è il cellularino a tasti, ricordati, quello è il cellularino a tasti. Devi chiamare il 351 per WhatsAppmi, non ti sbagliarmi già. Perché già, tu quando chiami il cellulare a tasti praticamente, è un altro numero, non è quello di WhatsApp, va bene, rimedi al danno. No, è WhatsApp, perché ti ho mandato anche altra roba, risulta che ti ho mandato quell'antenna che avevo trovato, eccetera, eccetera. Ma il video a che ora l'hai mandato? Non sia che dipenda da me, potrebbe dipendere da me. A che ora l'hai mandato? Stasera? 19:22. Io c'ho roba delle 18:30 di ieri, conta che oggi è venerdì 13, quindi può succedere di tutto, aspetta che mi tocco le palle. Non sarà, a me è anticipato di un giorno. Comunque niente, guarda, ti dico cosa, l'ultima cosa che ho è che tu mi hai detto ieri per il maresciallo, no? Grazie, altrettanto auguri. E poi io ho messo la faccia della scimmietta che ci copre gli occhi. Quella è l'ultima cosa che ho sullo storico della nostra chat, tutto lì. Mandami un ciao. Mandato, ecco qua. L'hai ricevuto, sì, doppia spunta blu. Vediamo, aspetta, ola, prova la cipolla, Millo, eccolo, ecco, adesso me l'hai mandato, 45 mega, devo fare download e aspettare pazientemente che lo scarichi. C'è qualcun altro qua che vuole entrare, avanti. Ciao ragazzi, ma il checco si sente, perché non so come fare a fare a dire a Gianfranco. L'eco, per fare a dire a Gianfranco. Io mettiamo tutti l'eco a manetta. Cioè, ma io tutti questi baracchini moderni li sto mettendo l'eco di serie come se fosse una cosa indispensabile. Ma ecco, a voi Marco. Non funziona. Cosa non funziona? Scusate, sono un cretino, lo ribadisco, sono un cretino. Invece di alzare l'eco a manetta, ho alzato lo squelcia manetta e il volume a manetta, per fortuna anche lo squelcia manetta prima. Se no mi avrebbe fatto pure sordo, dai. letta. Avanti Gianfranco, ma te li immagini, Marco? Cosa che capita, no? Io. Tanto non ci riesce a farmi adirare, non è così facile. Gianfranco, se ve ne racconti una io vi fate quattro risate. L'altro giorno sono andato a fare la spesa con la macchina, ho messo la macchina nei parcheggi, nei parcheggi del supermercato, che tra l'altro è un centinaio di metri da casa. Prendo due buste di roba e mi incammino, arrivo al portone di casa, vado a prendere le chiavi e non mi trovo le chiavi. Ho detto le chiavi ho perso. Poi ci penso bene, la macchina mi sono dimenticato, per in macchina, sono dovuto tornare indietro a prendere la macchina. E poi ti stavi pure dimenticando le chiavi di casa. No, le chiavi di casa erano in macchina, è per quello che non le trovavo. Cioè, ma ero già arrivato al portone, capito? Sì, comunque la sapevo già perché l'avevo già ascoltato, l'hai già raccontata. Mi sembrava di no. Adesso man mano che si diventa anziano. italiani si dicono sempre le stesse cose, non cazzo. Gianni, cos'era successo? Un attimo che ero distratto. Sono andato al supermercato, manco a fare la spesa, ho preso la macchina, sono partito da casa, il supermercato è a 100 metri, ma dovevo prendere acqua, roba pesante, quindi ho preso la macchina, e poi in effetti l'ho messa nel parcheggio, e ho detto vabbè dai, e l'acqua già ne va ancora, la prendo un altro giorno, e ho preso due buste di roba e basta, prendermi in cammino, arrivo al portone di casa, vado a prendere le chiavi di casa, e tocca le chiavi ho perso, poi mi è venuto un flash, poi che ero in macchina, sono tornato a piedi, e sono dovuto tornare indietro a prendere la macchina. E invece un amico di mamma ha parcheggiato vicino a casa e poi non si ricordava più dove aveva parcheggiato. L'ha cercata, non la trovava. Però è anche un uomo che ha 87 anni e quello vabbè è giustificato. No, ma a volte sono anche pensieri, capito? Quando c'è pensieri e cosa diventi il cervello. Alle volte sì, a seconda di insomma di cosa stai facendo, se c'hai roba urgente o grave in testa a cui pensare, succede. Dove eravamo rimasti? Boh. Perché dovevi mettere l'ecco poi, non so se l'hai fatto. Ma sono andato sul 15 un attimo, me lo sono ascoltato, ma non mi, è più forte di me già, non mi piace l'eco, non mi piaccio con l'eco. Infatti è spento qua, tutto a zero. Non è più forte di me. Cioè non mi, hai zitto. E poi a me piace breve. Una cosa molto breve, più breve. One, two, three. Leggero, però a cosa serve? Allora, ai fini della comprensibilità, però figo, no, questo non piace nemmeno a me, troppo ripetitivo. E poi lo metto veloce io, non lo metto con la ripetizione lenta, lo metto molto veloce, tipo riverbero, come può essere il Connex 4000 Eco, il Major, ti ricordi? Vabbè. No, dove eravamo rimasti? Parlando di cosa stavamo parlando, telefilmi, così. Sì, già, io sono molto filmettaro e anche telefilmettaro. No, io più che altro guardo programmi, quelle cose mi interessano, tipo, non ti posso dire, programmi sugli animali, tutte queste cose qua, dai. Documentari più che altro. Poi mi guardo Gerry Scotti, che mi piace il programma che fanno con Belen, c'è anche Belen pure. Mi guardo anche quello, vai. Più sì che vale, sviguarda. Quello lì però non riesco mai a vedere sino alla fine, anche mi trovo bene. Sì. Sì, anche a me i documentari piacciono, natura, scienza. Invece evito come la peste roba tipo l'isola dei famosi, il grande fratello VIP poi, capito? Quindi piove sul bagnato, tutto qui quella roba lì dove bisticciano praticamente dall'inizio alla fine, non è TV quella, è roba terra a terra proprio. Ma tu non mi hai detto che vai sul canale 26 da no? Vabbè, il 26 è un'altra cosa già. E poi è banale, cosa vedi? È tutto abbozzato. Se voglio vedere roba seria, c'è Io Porno, lo sai. Altro che canale 26, Io c'ho internet anche dal televisore, quindi potrei giostrare, ma non ne uso mai dal televisore, lo sai. C'è uno schermo enorme, però non ne uso mai. Eppure è una figata vedere roba di YouTube. Per esempio sto seguendo vari canali che parlano di radio, lì si trasmette più che altro baracchini, no? Dall'Inghilterra, dalla Saxon Wave, come si chiama? Polonia, fanno recensioni di radio appena uscite, capito? Pregi, difetti, le testano in laboratorio per vedere quali sono le pecche, le migliorie da fare. E naturalmente inglese, grosso modo, pure sottotitolato inglese, però interessante. Vabbè. perché io massica l'inglese, io ho fatto francese. Vabbè, qualcosa già la capisco, ma non tutto. Per dire, ho preso un fornamicrome, tutto in inglese, non c'è scritto nulla in italiano, tutto in inglese. Purtroppo anch'io ho fatto francese alle medie, questa lingua poi non, che non mi piace niente. Vabbè.